Italia in controluce. Il programma di Radio 24 che indaga sulla cronaca, sulla politica, sul costume italiano. Buongiorno da Daniele Biacchessi. Sono sfondati i canali, l'acqua ha superato sulle strade, ha allagato tutto, ha chiuso la gente dentro, siamo riusciti a uscire in qualche modo, ma il alto il mare, come succede? È un'alluvione vera e propria, come quella che è successa giù al sud, cioè quindi il mare non ha permesso che l'acqua uscisse da sotto e l'acqua ovviamente da sopra è uscita e ha fatto il danno che ha fatto. Poi le frane a monte, la terra che scendeva giù, sassi, altre cose, macchine che uscivano, tavolini, tutta la roba per tutti i locali che sono a pieno terra, tutti quanti allagati fino ad altri 3 metri. Monte Rosso non c'è più, lo diceva il sindaco Angelo Betta ieri a Radio 24. Una delle perle delle Cinque Terre è stata travolta dal fango, così come le province di La Spezia e di Massa. 7 morti, un bilancio che è ancora provvisorio di questa alluvione che ha colpito il Levante della Liguria, la zona settentrionale della Toscana. Allora cominciamo il nostro racconto da Monte Rosso, uno dei luoghi più cari a tante persone, soprattutto ai milanesi. Molti milanesi hanno la casa nelle zone delle Cinque Terre, in quegli straordinari luoghi di memoria e anche di mare. Raffaella Calandra. Sì, buongiorno, io mi trovo qui a Monte Rosso in una di quelle che era delle stradine principali di questa cittadina in via Roma e sono arrivata via mare, l'unico modo per raggiungere Monte Rosso e il primo segnale della distruzione che c'è stata in questi borghi delle Cinque Terre è stato il vedere cambiare il colore dell'acqua del mare che da blu, verde è diventata a un certo punto marrone, marrone come la terra, la tanta terra che è scesa dalle montagne e che ha travolto proprio tutto, ha travolto i negozi, ha travolto i bar, ha travolto le case e ha provocato qui a Monte Rosso anche la morte di una persona, di uno volontario della Protezione Civile. Camminando tra colline di fango si vedono le macchine ormai arrivate all'altezza del primo piano delle case, si vede qui su quella che era la spiaggia tutti gli oggetti che la furia del fango ha portato, dai menù dei ristoranti alle pentole delle case, agli oggetti personali, ai mobili che diventano un'unica barricata qui verso il mare, trascinata da questa onda appunto di fango che ha percorso il tratto dove prima sorgeva un torrente che è stato poi coperto, che è diventata appunto questa via Roma, una delle strade principali di Monte Rosso e che la cui opera in questo momento viene un po' messa sotto accusa, anche se risale agli anni 50, perché poi negli ultimi anni dall'82 questa zona è diventata prima parco regionale, poi parco nazionale, patrimonio dell'UNESCO e quindi ci tengono tutti a ricordare che non c'è stato quell'abusivismo edilizio, quella cementificazione che ha colpito altre zone. Fatto sta che però in questo momento Monte Rosso e tutti i suoi abitanti fanno i conti con un'alluvione che i più anziani dicono essere peggiore di quella del 66 e peggiore anche dei bombardamenti del 44 che qui sono stati molto, molto pesanti. Grazie a Raffaella Calandra da Monte Rosso. Devo dire che racconto questa storia con il groppo alla gola perché Monte Rosso è veramente uno dei grandi luoghi forse più vicini a Milano, a Torino, dove non solo diciamo molti hanno case, seconde case, ma soprattutto dove si vive ancora di pesca, dove ancora si vive di turismo, dove si vive attraverso quei sentieri straordinari con gli ulivi e le vigne. Andrea Ferro, si è aperta anche un'inchiesta, io aggiungo finalmente un'inchiesta da parte della magistratura. Sì, buongiorno, da Massa è arrivata la notizia che la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per la morte dell'uomo e della donna travolti martedì sera dall'esondazione del Magra. Ha spiegato il procuratore Aldo Giubilaro che si intende stabilire se alcuni interventi realizzati recentemente lungo il fiume possono aver ostacolato il deflusso dell'onda di piena. Verranno acquisiti video e testimonianze. Grazie a Andrea Ferro. Francesco Maesano ha intervistato il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando. io ho visto questi comuni via mare con un battello, con un gommone, è una situazione pesantissima perché abbiamo l'autostrada, la strada statale, la ferrovia, gente rotta ancora per qualche giorno, e poi questi due comuni costieri assolutamente impossibilitati a vivere perché c'è il fango, appunto il centro storico, parliamo di 3 metri di altezza, e poi c'è un evento da completare, da fare, Val di Varo, numerosi comuni, Pignonia, Borghetto, Rocchetta, Sesta Godano, Lugnato, la situazione è veramente molto molto pesante. Situazione pesante, dice Claudio Burlando, lo ha fatto poche ore fa, dopo questa ricognizione via mare a Monterosso e a Vernazza, dopo aver incontrato il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli, uno dei più importanti investigatori italiani, che proprio poco fa ha detto che agli abitanti di Vernazza, che gli chiedevano quando si potrà iniziare la ricostruzione, ha detto: non siete il Vajont, ma ha lasciato questo mai in sospeso, questi puntini in sospeso. Sandro Cepollina è il presidente di Confindustria Liguria, lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. Esattamente, i danni sono ancora inquantificabili in quanto la situazione non è ancora sotto controllo dal punto di vista proprio dei soccorsi e dell'organizzazione dei soccorsi. Si sa che ci sono alcune aziende, specialmente nella Valle del Magra, che hanno subito dei forti danni, si ipotizza una trentina di aziende che in questo momento devono in qualche maniera o sospendono o ridurre la produzione. Siamo dell'ordine di tanti soldi, ma più che altro anche dal punto di vista psicologico, con un territorio che è completamente distrutto, preoccupatissimi, poi le Cinque Terre oltretutto era anche spero che continui a essere, insomma, di importanza nazionale rispetto all'appeal turistico che ha. Senz'altro i danni sono enormi. Voi come imprese che cosa vi sentite di chiedere, oltre al fatto ovviamente che si faccia presto? Senz'altro ci vorranno insomma degli ammortizzatori sociali adeguati rispetto alle aziende che hanno subito questi danni, ci vorranno poi anche delle possibilità di ripartenza e di ripresa, che non succeda come è successo con Festi di Ponente lo scorso anno, insomma, che i fondi promessi dal governo non sono ancora stati distribuiti, non sono ancora arrivati. Credo che bisognerà assolutamente che, se il governo intervenga in maniera reale e immediata. Natalia Caputo, di professione affittacamere a Brugnato, questa è la sua testimonianza raccolta poco fa da Maria Luisa Pezzali. Io ho il piano terra che praticamente è entrato un torrente d'acqua. Ieri sono andata a fare un sopralluogo e oggi pomeriggio andrò con degli amici e bisognerà che tiriamo fuori tutto il possibile, che poi naturalmente si valutino i danni, ci sarà il fango da togliere, vabbè. Però non ho perso la casa, sono salva e rispetto ad altre persone ci mancherebbe altro. Stamattina siamo andati a prendere l'acqua dall'autobotte, quantomeno ho visto partire degli spalatori che andassero a togliere il fango dalle strade, quelle piccole per intenderci, perché in quelle grandi ci sono le ruspe, quindi invece nei Carugi, per dire, ci sono 20 centimetri di fango e lì se non ci vai con la pala non ci si arriva. Stiamo andando a vedere una casa di un amico che non ce l'ha più, è una situazione abbastanza pesante. Come vi spostate? A piedi. Io, perché anche la mia macchina è stata sommersa dal fango, insomma stiamo un po' tutti aspettando ancora, che ieri c'è stato lo sbigottimento, l'altro ieri c'è stata la tragedia e oggi, insomma, con un pochino più di lucidità si vedrà di fare qualcosa nel concreto, ecco. Il suo affittacamere è in centro, in paese proprio? Il mio affittacamere è in centro, naturalmente questo ha significato dover disdire le prenotazioni che avevo per il weekend. Avevo in un primo momento messo a disposizione le camere per poter ospitare chi ne avesse avuto necessità, però non c'è luce, non c'è acqua e soprattutto c'è questo piano terra dove c'è l'angolo delle colazioni e una camera che sono completamente inagibili. L'acqua è entrata dentro un metro e dieci, ha vorticato. Quando sono entrata ieri sembrava che ci fosse stato più che un'alluvione, un terremoto. Lei dove si trovava martedì quando è successo? Fortunatamente a casa, e io abito in piazza, sempre nel centro storico, a 50 metri dalla struttura. Nel pomeriggio, quando è precipitata la situazione, tutta la piazza è stata invasa da quest'acqua e fango e si è incanalata, diciamo, direzione chiesa, nella viuzza dove ho la fittacamera, e lì ha creato un torrente con tronchi, con qualunque cosa. Io alle 5 sono voluta andare a vedere e praticamente mi sono immersa nell'acqua fino allo stomaco, tanto per intenderci, un metro e dieci d'acqua c'erano tutti, e infatti c'erano i gommoni del rafting che passavano lì perché non si poteva transitare. Certo è che la tragedia di questi giorni la dice lunga, insomma, cioè qui ragazzi bisogna avere attenzione rispetto al territorio perché la natura è un pochino più forte di noi, no? L'immagine è quella di Monte Rosso, via Roma, vicino all'arco, al vecchio arco dove c'è il tabaccaio, un'onda di fango che travolge tutto, i negozi, le case, le barche, fino al mare. Quella memoria di un paese che l'altro ieri era cosa viva, ora non c'è più. Vi saluta qui Daniele Biacchessi, le informazioni continuano naturalmente ad aggiornarvi sia su questa vicenda, quella dell'alluvione, che sul funerale che si tiene tra poco. Il funerale è molto, molto atteso, il funerale diciamo di uno degli altri pezzi di storia dello sport, che è Simoncelli.